Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Mosca ha oramai il controllo militare della Crimea. Des commandos armés pro-russes ont pris de facto le contrôle de la Crimea. Ucraina, Kiev richiama i riservisti. Ucrania accusa Russia de declararle la guerra y se prepara para defenderse. La Crimea di fatto occupata da migliaia di militari russi e tensione altissima. Russia has issued an ultimatum to Ukrainian forces. È arrivata la notizia poi smentita dell'ultimatum dei russi all'esercito ucraino. Mosca continua a negare tutto. Der Chef der ukrainischen Marine ist zur pro-russischen Regionalregierung der Krim übergelaufen. Così dunque la Russia è entrata in Crimea, armati di tutto punto. Per il momento sul campo la situazione è questa. Dunque Putin ha smentito l'ultimatum, ma la tensione resta alta in Ucraina, lo scontro forse solo rimandato. Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera, ciao, sei in Crimea adesso, no? Ecco. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Questo ultimato, un po' vero, un po' finto, un grande giocatore di poker, insomma, Putin? Ma sì, in realtà la notizia dell'ultimatum è stata rilanciata dal Ministero della Difesa ucraino, cioè in realtà è stata una chiacchiera di corridoio che l'agenzia russa Interfax ha lanciato attribuendolo agli ucraini. Ah, ecco. C'è un commento molto carino di un giornalista inglese stamattina che dice la Russia ha dispiegato migliaia di chiacchiere in Crimea, e quello un po', questa è un po' la sensazione. Oh. Senti, ma il capo della Marina ucraina però è già passato coi russi, è un caso personale sì, oppure è l'interpretazione di un sentimento molto diffuso lì, no? Mezzo e mezzo, nel senso che lui ha una storia personale particolare, si dice addirittura che la famiglia abbia ricevuto delle minacce dai gruppi filorussi. Dall'altro lato è vero che in Crimea molti sono filorussi, certo, anche delle forze armate, ma soprattutto sì, sono anche russi, e poi tanti soldati di forza in Crimea sono, per una legge speciale varata un po' di anni fa dal Parlamento di Kiev, fanno il servizio militare alla Naia qua. No. Quindi di fatto gli ucraini si sono trovati un esercito fatto in gran parte di soldati. Senti, che sono amici dei russi. Ma per strada che atmosfera c'è lì dove sei tu? L'atmosfera adesso è di veramente di tranquilla attesa, nel senso di paurosa tranquilla attesa, nel senso che si aspetta di capire quale potrebbe essere una reazione di Kiev, ma nessuno si aspetta in realtà niente di drammatico. Un ingresso armato, no, in questo momento no. Tu eri a Kiev la settimana scorsa, ecco, c'è un'area molto diversa tra la Crimea filorussa e l'Ucraina nazionalista, molto? Sono due paesi diversi, ecco. assolutamente due paesi che si contrappongono, dove la retorica dell'unità nazionale non riesce a tenere insieme anime che veramente si chiamano... Sono diversi. Sì, da una parte tu vai anche in posti come Leopoli, dove fanno il saluto, ci sono i gruppi oltranzisti che fanno il saluto nazista, e poi arrivi dalla parte, vai nel profondo est e trovi ancora i ritratti di Stalin. Quindi veramente hai la sensazione due mondi diversi. Di due vecchie Europe. Ecco, senti Francesco, ma si può dire come ultima cosa che Putin in qualche modo in Crimea ha vinto senza sparare un colpo per adesso? Ma per adesso sì, assolutamente sì, ha piazzato i suoi uomini, anche questa, diciamo, un'altra finta notizia del ritiro dei contingenti dall'ovest della Russia, cioè lui aveva fatto queste esercitazioni militari in coincidenza con la crisi ucraina, aveva dispiegato molte forze anche sul confine ucraino a est. Oggi c'è questa notizia, Putin ritira le truppe, in realtà le esercitazioni dovevano finire a mezzanotte, erano già state programmate fino al 3 marzo, lui non ha ritirato nulla. Terminato le esercitazioni che aveva programmato da tempo. Quindi informazione contro informazione. Grazie Francesco, buon lavoro, a risentirci. Grazie mille. Senti, grazie a voi. Voi avete Mario, tu hai paura che la situazione trascenda oppure questa partita di poker giocata molto bene da Putin? Dunque, Il quadro in cui si svolge è molto complesso. Vorrei ricordare che noi in Occidente importiamo gas russo e tutto quel gas russo passa dall'Ucraina, o quasi. Vi do due numeri: la Germania importa il 36% di gas russo, l'Italia il 27%, la Francia il 28%. Da qui anche le cautele di Angela Merkel, come hai visto, eccetera. L'altra cosa. 800 24 00 24, il numero verde naturalmente per chi vuol chiamare, 349 238 6666 l'SMS. Ci sono due ordini di importanza. Il primo appunto è quello energetico. Il 66% del gas che la Russia esporta passa in Ucraina, certo, passa nei gasdotti ucraini, quindi questa è l'altra cosa. E il 58%, sempre per dare un po' di numeretti che spiegano la realtà, che altrimenti non si capirebbe. Sì, ne parliamo poi con Romano. Il 58% del gas che viene consumato dall'Ucraina è russo. Potrei continuare con l'equilibrio militari. La flotta del Mar Nero sta in Crimea, a Sebastopoli. Sebastopoli è importante come base logistica, ma c'è una condizione storica con Yalta, dove Baffone Stalin fece gli accordi per poi disegnare la nostra contemporaneità, di fatto, ecco. E non lascerei trascurato il fatto che ci sono anche aeroporti importanti come appunto Simferopoli e così via. Quindi in realtà È una situazione complessissima. Secondo te Pietrangelo può trascendere la situazione, oppure è una situazione, appunto, come dicevamo, uno scacchiere giocato molto abilmente, ma insomma poi nella sostanza, nella complessità degli intrecci di oggi, non è tanto semplice pensare che si finisca a schioppettate. Nella complessità c'è un elemento semplificatore, e cioè la presenza della Cina. Non c'è nessuno, mi sono reso conto oggi leggendo tutti i giornali e controllando tra le varie agenzie di stampa, che abbiano dato notizia di un fatto, e cioè che la Cina si è schierata con Putin. È vero. E quindi è un punto semplificatore nella questione, perché è un elemento di forza totalmente sfacciato che non consente lucubrazioni, né tantomeno può consentire che la cosiddetta chiacchiera occidentale ci possa confondere rispetto alla realtà dei fatti. Beh, sono due imperi che hanno in comune un obiettivo, quello di non disgregarsi, allargare la loro sfera di influenza. È vero che questa è una notizia un po' trascurata, ma sì, molto importante. In attesa di riprendere anche la nostra riflessione, abbiamo il professor Sergio Romano. L'Europa in questa questione ucraina sta verificando in qualche modo la sua impotenza? Ma per la verità l'Europa voleva essere potente, voleva in qualche modo allontanare l'Ucraina dalla Russia e avvicinarla all'Europa, ma però non voleva che entrasse nell'Unione Europea, ed fu questo il suo errore principale, perché offrì all'Ucraina qualche cosa che non era sufficiente per entrare nell'Unione Europea, ma suscitò delle speranze e delle illusioni. E infatti le offerte economiche fatte dall'Europa all'Ucraina sono state risibili rispetto a quelle russe. Sì, risibili, ma intendiamoci, un trattato di libero per la zona di libero scambio, un trattato di libero commercio in una prospettiva futura è molto importante, ma certamente non quello che può risolvere i problemi dell'Ucraina in questo momento. Ecco, ma rispetto alla situazione attuale, le sembra che un vertice europeo convocato per giovedì sia una risposta adeguata? No, non è una risposta sufficiente, ma dovranno pure parlarsi, dovranno pure cercare di concordare una linea, e non avrebbero potuto farlo se non con un vertice. Senta, professore, intanto i russi intimano all'esercito ucraino di arrendersi in Crimea. È la premessa di un bagno di sangue o una prova di forza per trattare in un modo diverso? Ma è certamente un ammonimento molto forte, ma è chiaro che i russi non rinunceranno mai alla Crimea. Non hanno mai veramente rinunciato, hanno una base militare importante, è una regione storicamente russa, quindi pensare che la Russia avrebbe potuto rinunciare alla Crimea era casomai una illusione. Non dimentichiamo poi che la Russia sta reagendo in quel modo in Crimea, anche e soprattutto perché a Kiev recentemente hanno promulgato una legge che cancella il russo come seconda lingua nazionale. Questo vuol dire privare la gente della Crimea della propria lingua. E sono russi sostanzialmente? Ma sì, grosso modo due terzi. sembra una violenza abbastanza forte da parte di Kiev rispetto alla Crimea. Non bisogna dimenticare che il problema della lingua è sempre stato fondamentale, dovunque ci siano minoranze. Noi ne abbiamo fatto un'esperienza nostra, sì. Si ricorda con il bilinguismo in Alto Adige. Naturalmente. Ma in questa situazione lei sente aria di nuova guerra fredda o addirittura di guerra calda? Non devo dire la verità, che mi sembra molto esagerato parlare di guerra fredda. A me sembra che la Russia e l'Unione Europea e in ultima analisi anche gli Stati Uniti abbiano degli interessi comuni che dovrebbero fare premio su qualsiasi altra considerazione. Oggi l'economia è molto più importante di quanto non fosse negli anni della guerra fredda. Ecco, ma gli Stati Uniti in qualche modo stanno dimostrando una fragilità nella politica estera in questa vicenda, parlano, telefonano, però insomma non sembrano in grado di avere posizioni nette. Gli Stati Uniti stanno uscendo gradualmente dal loro ruolo tradizionale di poliziotto del mondo. Del resto Obama lo ha detto con grande franchezza: non vogliamo essere i poliziotti del mondo, quindi non vogliamo essere coinvolti in questioni che non sono vitali per il paese. Però d'altro canto è presidente di un paese in cui esiste pur sempre una forte componente nazionalista, se non addirittura imperialista, che gli è molto ostile, e lui deve pur prendere delle posizioni che diano soddisfazione anche a quella parte del paese, o soprattutto che non lo espongano troppo alle critiche dei suoi nemici. Cioè, secondo lei, se fosse per Obama, in qualche modo sarebbe neo-isolazionista? C'è un nuovo isolazionismo negli Stati Uniti, di cui effettivamente lei ha ragione. Obama potrebbe essere il rappresentante intelligente, ma in questo momento non amato da una gran parte del paese. Ecco, professore, ma il potere del gas russo, di Gazprom, che agisce assolutamente di conserva rispetto alla politica di Putin, è la variante determinante di questa vicenda? Lei dice appunto l'economia è molto più importante. È chiaro che è uno strumento di potere e Putin ha dimostrato di saperlo usare come strumento di potere. L'Ucraina ha bisogno del gas e a questo punto, se non lo prende dalla Russia, dovrà prenderlo da qualche altra parte, e questo costerà infinitamente più caro, e molti soldi non ne ha. 40-50 miliardi di dollari sono più o meno la somma necessaria per farla uscire dalla crisi. E poi è una pressione anche sull'Europa, che ha un gas che passa di lì, e quindi anche per l'Europa è un problema. Sì, devo dire che la Russia deve stare attenta tuttavia, perché questa forza del gas, questo strumento di potere, non è destinato a durare indefinitamente. Oggi il gas, il shale gas, il gas delle rocce schistose, sta diventando sempre più diffuso, gli Stati Uniti sono autosufficienti e la Polonia ne è ricca, quindi un giorno o l'altro potremo trovarci con una Polonia che condiziona molto di più la nostra politica di quanto non accada con la Russia in questo momento. Ecco, professor Romano, ma sospendere il G8 o minacciare di sospendere il G8 di Sochi può in qualche modo limitare la determinazione di Putin, oppure è solo propaganda occidentale? L'Unione Europea parla come Barack Obama per dare soddisfazione a quella parte della sua opinione pubblica che desidera in qualche modo ferire la Russia. Esiste un sentimento antirusso in Europa diffuso, presente a sinistra come a destra. Io credo che questa minaccia lanciata dagli Stati Uniti sul G8 sia sbagliata, e credo che rischi oltretutto di provocare in Russia una reazione di segno contrario. 800 24 00 24 il numero verde, mi dicono di darlo piano perché sennò non si sente, numero dell'SMS 349 238 6666. Ecco, qui abbiamo ricevuto un SMS interessante. Diamo l'incarico a Putin di rimpatriare in Marò Marco, dice. potrebbe essere lui ci manda i paracadutisti. Un'idea efficace. Senti Mario, prima di sentire Riccardo Sessa, volevo fare una domanda per uno. L'Unicredit ha un asset di 3,4 miliardi di euro in Ucraina. Ecco, cosa vuol dire? Cosa dobbiamo temere? Ma per ora niente, perché comunque la situazione, diciamo, è relativamente stabile finché non sfocia in una guerra civile, che io ritengo per ora, diciamo, improbabile. Ma naturalmente tutto dipende poi da cosa fanno a Kiev in realtà, perché Putin non è che ha intenzione di muoversi dalla Crimea, per ora almeno. Gli asset sono importanti, è uno dei principali gruppi bancari di quel paese. Tieni presente che la questione ucraina ruota tutta intorno al gas, quindi certo, chi paga quel conto, e poi all'eventuale default se il paese va in una situazione di stallo profondo. In questo caso ci sono una cinquantina di miliardi da pagare. Tu devi ricordare sempre una cosa, insieme agli ascoltatori e tutti noi, che il caos della Grecia nasce perché all'inizio era una robetta da 50 miliardi che però nessuno voleva pagare. Esatto. Bisogna stare attenti, perché in questi casi poi il conto cresce, capito? Certo. E questo è il punto. Cioè, i tirchi fanno male. Senti, Pietrangelo, la Merkel ieri ha detto una cosa sorprendente. Ha detto che Putin ha perso il contatto con la realtà. Tu che sostieni sempre questo asse, insomma asse no, ma questa tendenza della Merkel a guardare negli occhi Putin. Insomma. La risposta l'ha già data forse Sergio Romano prima, ha voluto parlare alla sua opinione pubblica. Sulla Zeit, per esempio, veniva riferito di una telefonata molto più diretta, morbida, molto più interessata, perché ricordiamoci c'è sempre Schröder in Russia, Mr. Gazprom. Sicuramente è significativo che un ex premier stia lì in un ruolo decisionale importante per gli equilibri economici fra queste due potenze. Ricordiamo che comunque la Germania guarda ad est, sì. È sempre la cosiddetta marcia verso est ed è solo nell'orizzonte di un continente che è l'Eurasia. Ecco, è arrivato un altro sms che dice: Putin gioca a risico e conquista la Crimea. Ricapitolando, la Merkel ha conquistato l'Italia 1-1. Ha ragione, ma scusa, Putin parliamoci chiaro, è stata la star della politica estera nel 2013, sì. Piaccia o meno. Nel 2014 ha fatto questa mossa che è micidiale, sono tutti spiazzati. Tutti spiazzati, lui gioca con decisione. Riccardo Sessa, buongiorno, lei è stato ambasciatore a Teheran, Belgrado, Pechino e alla NATO. Ecco, di fronte a crisi come queste, qual è la reazione della NATO? Intanto può reagire? Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. La NATO può reagire? Beh, certamente la NATO, teniamo presente che è l'unica organizzazione internazionale che lega gli europei e gli americani, ma che ha soprattutto delle capacità militari. Aggiungiamo a questo che l'Ucraina confina con numerosi paesi, tra cui, tolta la Russia e la Bielorussia e la Moldavia, ci sono la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania che sono membri dell'alleanza. E quindi cosa può fare la NATO in un teatro caldissimo come questo? Innanzitutto, può sembrare banale, ma nella situazione attuale non lo è, monitorare la situazione. Sì. E la NATO lo fa permanentemente con le proprie... Quindi informazione dettagliata, sapere esattamente come... con le informazioni dettagliate, e poi si può preparare ovviamente a svolgere un'azione un po' più pesante, sia sotto forma di pressione diplomatica sia sotto forma di eventuale intervento militare, cosa che io francamente... Ecco, appunto, lei era nel Kosovo nel 99, è stato osservatore diretto, quanto era ambasciatore, se non ricordo male, a Belgrado. Sì. Non c'è un rischio di conflitto come quello, secondo non me? Non lo vede assolutamente. Ecco, ma la diplomazia, però, in questo momento sembra superata da una parte, lo diceva anche bene Mario Secchi, dalla politica... della forza, la velocità di decisione politica di Putin e dalla potenza dei media, che spiazzano abbastanza anche la possibilità di mediazioni diplomatiche. Serve la diplomazia in momenti come questi? Ma guardi, io credo che proprio in momenti come questi ci accorgiamo che la diplomazia è essenziale. Battaglie e operazioni come queste, battaglie nel senso politico, ovviamente, non certo, militare. Certo. Ma situazioni di crisi come questa, crisi che è seria, io non la voglio minimamente sottovalutare. Lei dice la diplomazia ha il suo ruolo in questi casi. Ma è solo la diplomazia che può risolvere questi problemi. Queste sono tutte delle operazioni mediatiche fortissime. Sì. Torno a ripetere, non sottovaluto minimamente i carri armati russi che sono entrati. Stavo facendo un lapsus. Un lapsus, su un lapsus. Meraviglioso. No, ma un lapsus vissuto, che corrisponde a un trend. Io ho convissuto con i colleghi a Bruxelles dei paesi ex Unione Sovietica. Per loro il ricordo dei carri armati dell'Unione Sovietica, il ricordo delle uniformi russe è ancora una cosa vivissima. Certo. Ambasciatore Sessa, siamo in chiusura. Il memorandum di Budapest del 94, che è firmato anche dalla Russia, prevede il rispetto della sovranità e dei confini dell'Ucraina. Questi memorandum valgono qualcosa o non valgono niente? Sono sempre carta straccia al momento buono? Non mi faccia dire che sono carta straccia. No, non glielo faccio dire, ma so che lo pensa. però certamente l'accordo, questo memorandum del 94, aveva un senso perché doveva controassicurare l'Ucraina che smantellava il proprio arsenale nucleare, era il terzo paese sul quale erano schierati armamenti nucleari. Infatti, un'ultimissima domanda: in Ucraina ci sono 14 reattori atomici. Ecco, nel caso si aggravasse la situazione, cosa capita? Io non sono un esperto di gestione di reattori atomici, ma insomma, uno, la situazione non si aggraverà, due, ci saranno sicuramente dei sistemi per metterli in sicurezza. Il problema non è questo, per fortuna non hanno più armamenti nucleari, questa è la cosa principale. Va bene. Mix 24. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Pietrangelo, eccomi. È l'Europa con Putin oppure Mario con la sua fidanzata? È l'appuntamento. Allora, dovrebbe essere una dedica speciale per Mario. Però Mario mi perdonerà se la spieghiamo, questa bellissima canzone di Ornella Vanoni. Sono rovinato, va bene. L'appuntamento con la storia. Con la storia. È quella la tua fidanzata. Perfino Matteo Renzi si è dovuto attrezzare con Google Map e il Risico per capire la guerra di Crimea. E allora citerò Giorgio Lapira sul grande Mattei, fondatore lì, che disse: è un uomo che ha il senso della storia. No, anche io sono così, dai. Un po' più piccolino, ma insomma me la cavo. Ma però l'hai presa, il paragone è buono. No, perché mi ha colpito, era una bellissima intervista di Zavoli a Mattei, a Lapira, sì. Meravigliosa. La stavo guardando ieri per altre cose di lavoro. Devo dire, un grande ritratto. E quello era un politico che sapeva parlare, la pira, e conosceva le cose. Come dire, non intermezzo, dai. Non ci manca ignoranza. Ignoranza. No, siamo molto ignoranti. Questa pensa è la nostra forza. È stato il mio testimone di nozze, la pira. Ah, e me lo dici così? Vabbè. Cioè, cosa bolle in pentola? Ah, quindi conosci Tani la pira. Allora, vabbè, Giovanni, io, insomma, senti qui. E io vago! Allora, come dire, perché? Perché qua va bene, l'Italicum, ci sono un po' di problemi, stoppingo della riforma, poi magari forse Pietrangelo ci fa un'incursione, mi pare, su questo. Però qua il vero tema è che gli italiani si attendono, dopo le nomine dei segretari, qualcuno che c'era si è dimesso, forse non doveva esserci dall'inizio. Secondo te chi le ha fatte le nomine? Ma secondo me le ha fatte, come si chiamava quello là che faceva la lottizzazione? Cencelli. Insomma, dopo le nomine eccetera, gli italiani dicono vabbè, ma i provvedimenti fiscali, per cui si dice nei corridoi di Palazzo Chigi che probabilmente la prossima settimana cominciano a vedersi un po' di cose. E quello sarà un momento molto atteso. Sì. Il conticino di tutte le cose annunciate è un po' altino, vorrei ricordare questo, pare che siano un centinaio di miliardi in tutto, che non abbiamo ovviamente, quindi diciamo... Ce li faremo prestare. Non lo so, sì, c'era un mio amico imprenditore che un giorno mi disse: ma ce li abbiamo i soldi per fare questa cosa? E lui, serissimo, mi disse: secchi. il denaro si compra. Quindi, non male. Quindi vediamo, perché 100 miliardi sono una cifra ovviamente irrealistica in questo momento, è più un'attesa per vedere se fa un taglio vero del cuneo fiscale, come lo finanzierà e poi se il job ne parleremo quando capita, dai. Però ricordiamolo, qui si parla sempre delle cose che non ci sono ancora. Esatto, però questo mi colpisce che non ci sia ancora niente. È vero che Padoan è una persona seria, quindi vedremo. Sono passati 10 giorni. A proposito di persone serie, è tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Eccole le persone serie. È il grande Gordon Gekko. Sempre, ma è il tuo leader. Allora, capitalisti, io segnalo che a proposito di cose concrete, cioè, giustamente tu richiami, senti bene Pietrangelo, 9 fondatori e manager delle prime 9 società finanziarie che fanno private equity, che sono quotate a Wall Street. Chi è che fanno? Private equity comprano aziende, comprano quote di capitale delle aziende. Hanno portato... È strana sta parola. L'obiettivo si chiama target, se lo vuoi sapere in quel gergo. Allora, hanno portato a casa, tenetevi forte, guadagni per 2,5 miliardi di dollari. Cioè questi signori? Sì, 9. Il solo Leon Black della Apollo Management ha incassato, fermi tutti, allacciate le cinture, 546 milioni di dollari. Ecco, ma tu queste cose ce le racconti perché? Per farci desiderare l'arrivo delle truppe russe. Per dirvi... No, per dirvi che il capitalismo finanziario ha una leva bruttissima bestia. Ha una leva pazzesca. E poi dice gli oligarchi. E poi non si riesce a fare nulla con la Tobin Tax, farla pagare a nessuno. È una ieri società sera dell'1%. Ne approfitto per dire che ieri sera ho visto una bellissima trasmissione di Presa Diretta proprio sul problema sulle banche. Era ben condotta. È un programma di Rai 3. Molto interessante. E che impressione ti ha dato? Corrisponde con quello che raccontiamo qua? Esattamente, proprio così. Sì. Guarda che è incredibile, la società dell'1%. Io non sono certamente un luddista, diciamo così, però ci sono pochi che hanno tantissimo e molti che hanno niente. Hai visto che mi segnalavano l'editorialista del New York Times, Krugman, premio Nobel per l'economia, lascia Harvard per andare a insegnare in un'università pubblica, perché ha detto, siccome io mi sto concentrando sempre di più sullo studio delle uguaglianze, vorrei farlo anche in un ambiente che fosse, diciamo, coerente con le mie scelte. Forse un po' coraggioso, sì, forse un po' politicamente corretto, però è interessante che oggi tutto si stia focalizzando su questo. Buttafuoco, sei dubbioso? Sul politicamente corretto, lui politicamente non sa mai. Politicamente corretto, gli oligarchi, tutti questi soldi, i dollari, e allora uno, insomma, vuole i russi. Ma salite tutti in macchina, va. Sei sicuro di non andare troppo veloce? Se non ti fidi puoi sempre controllare. Allora perché la polizia ci insegue? Ma non saprei, dopotutto io sono un computer, non un indovino. Allora, c'è stato un accordo tra Ferrari ed Apple per fare quella che si chiama la Smart Car. In questo accordo ci sono anche Volvo e Mercedes e quindi le auto saranno piene di tecnologia. Questa è la supercar, l'avrete capito, è un pezzo importante della televisione di quando eravamo piccoli noi. E si moltiplicano, cari ascoltatori, i progetti sulle auto del futuro. Sì. Apple, come abbiamo raccontato qui, progetta di comprare Tesla per le batterie in particolare. Google sta facendo la sua Google Car, come molti sanno. Per che cosa? Beh, pensate sulla Street View che voi vedete sul computer, è stato fatto con quel tipo di apparecchiature, al pilota automatico del futuro, all'impacchettamento del traffico automatico, tutto proprio, alle riduzioni delle code in lunghezza e in tempo. Quindi tutto quello che è la società digitale ha un impatto anche sul nostro comportamento in automobile. Ne vedremo delle belle. Vero Buttafuoco? Il palazzo di Rimpetto. Ne vedremo delle belle. Sarebbe il caso di dire che giusto oggi, per tutta la giornata, per arrivare fino alla notte, è il martedì grasso e dovrebbe essere così, vederlo proprio bello in assoluto, sprecare tutto il nostro carico di malinconia, insomma fare festa, perché è sempre Quaresima. E allora abbiamo necessità che questo carnevale possa essere restituito al tempo sacro. E siccome non si fa mai festa, e siccome si pensa che sia soltanto una festa per bambini, no, è festa per Bacucchi! Bacucchi. Perché, certo, tutti noi, anche io e te, Mario, Bacucchi, perché avremo la necessità finalmente di avere gli occhi col colore del cielo e i capelli con la tintura della notte. Ma i capelli non li ho più io, ma no. Di cosa parli? Appunto, è carnevale, la parrucca! Ce l'ha! Poi il carnevale pagano. Guarda, vorrei dire la parrucca è quella che ha in testa Sara Tardelli in regia, che ha curato naturalmente. Non ci ha la dato notizia la canzone in 3D, doveva darci una canzone perché aveva dei problemi stamattina, ma stamattina è seccata, sì, e non vuole parlare perché? Oppure vai, mettila. Ah, c'è, c'è, nella c'è. Carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, hai batto il piede. C'ho un sassolino nella scarpa. Uno. Cosa abbiamo sbagliato oggi? Mi scocciate. Ah, bello, carina. Dunque, cari ascoltatori, la mia mattinata. Arriviamo, però guarda, arriviamo bella, presto qua. Vero? È bella, bella, bella, bella, bella, bellissima. Allora, vabbè, comunque la mattinata di Secchi comincia con entri a Radio 24. La mattina presto ti giri, vedi la Tardelli e le dici: Sara, ti odio. Va avanti così. Vabbè, va sentiamo bene. Un pezzo di andiamo cinema avanti. Mi piace, è veramente figo, semplice e pulito, situazione sentimentale, mi piacciono, è questo che smuove la vita all'università. Vuoi fare sesso o non vuoi? Per questo la gente si sceglie certi corsi o si siede in un posto invece di un altro, e diciamo che nella sua essenza è questo che The Facebook sarà per loro. Si connetteranno perché dopo le patatine e i pasticcini c'è la possibilità che riescano davvero a conoscere una ragazza, sì. Era The Social Network, è la storia un po' del sogno di Zuckerberg, no? Di quando cominciò da ragazzino. E caro Minuli, caro Buttafuoco, cari ascoltatori, accattatevi un drone perché si farà tutto con questo. Quei droni sono terribili. Sì. E beh, è una bella la nostra, storia questa. Anche i droni sono una fissa, sì, della Tardelli. Tu sai che Google ha questi palloni aerostatici, sì, che viaggiano ad alta quota, che servono come esperimento per dare connessione nei posti dove non puoi fare infrastruttura di terra, sì, sostanzialmente. Certo. Quindi anche nel deserto, no? Trasmetti il segnale. Invece Facebook fa una mossa contraria, almeno pare che la stia studiando, perché progetta l'acquisto di Titan Aerospace. Un'azienda che produce droni che a quanto pare possono tranquillamente volare per 5 anni senza mai atterrare. A cosa serve? A portare internet dove non ci sono connessioni. Guarda un po'. Salamini. Il salamino di oggi ancora una volta si appoggia alle pagine, alla pagina, alle meraviglie scritte Balzac. Da... Sì, bravo. Sì, Balzac, che su Repubblica si firma con lo pseudonimo di Carmelo Papa. Balzac ha incontrato il leader di Forza Italia, e quando si dice leader non si intenda il padrone che è Silvio Berlusconi, bensì Giovanni Toti, il quale, quasi come in un ritornello di ripicca. Ecco questo gatto nero, cos'altro è se non l'Italicum? Quella legge elettorale concordata al Nazareno tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Ma si prendono tempo, doveva essere stabilito subito, ma già siamo a marzo, febbraio è passato, siamo nella martedì grasso, e questo carnevale elettorale quando arriverà? Aveva ragione lui! Lui, Baffo, l'unico chi? Che si può fregiare della L maiuscola quando disse delle elezioni... Churchill, chi? Che Churchill? Quando disse delle elezioni, ludi cartacei! Ludi cartacei. Canzoniere. Venti secondi, niente, è facilissimo. Un grande poeta dell'anno 1000, un meraviglioso capitolo della letteratura italiana di lingua araba per la voce di Etta Scollo. Ditemi chi è questo poeta. Bianchi ma trentaro li capiti, e non mi basta l'arba di rire e cantare, che quando ti lasciavo sono bianchi, fanno una notte di ora, fanno una notte di ora. 800 24 00 24, chi indovina, numero dell'SMS 349 238 6666, dopo la viabilità. Mix 24. Voglio farti vedere quel Rembrandt laggiù. La gente viene da tutto il mondo per vederlo. È bello, sì. È un falso. Ma che dici? È impossibile. La gente crede a quello che vuole credere. Il tizio che lo ha dipinto, agli occhi di tutti, era bravo quanto il vero pittore. Allora, chi è l'artista? Il pittore oppure il falsario? Beh, fantastico, questo è un pezzo di American Hustle, è un bellissimo dialogo, la scena di questi due che guardano questo quadro e a un certo punto non si capisce più che cosa è vero, che cosa è falso, dov'è la realtà, dov'è il virtuale, dov'è l'abilità di chi dice il falso e fa finzione e dov'è l'ingenuità di chi non lo coglie subito. Un pezzo di grandissimo cinema, non a caso, certo. La serata degli Oscar finita come è finita, cioè ha preso i premi giusti. E allora, caro Buttafuoco, dica, tu sai cos'è un selfie? Sì, però, no, dicelo. Come però, lo sai in inglese? Sì. Cioè, però a spiegarlo mi sento un piritollo. È un autoscatto. Come... Ah, l'autoscatto, no, però, che suona male, autoscatto. Però, aspetta, senti la lingua. Allora io dico selfie. Di tu, di la tua autoscatto. No, dillo come l'hai detto prima. Un autoscatto. No, l'hai detto così. Autoscatto. Così l'hai detto. E che te pare che sogno? L'hai detto, cioè, con un tono diverso. Non mi pare. Eccola, vedi non che mi uscire. Pare. Vedi che reagisce. Ti faccio uscire lo scruscio di carretto. Ti farò fare un selfie quando tu fai così con la manina e dici non mi pare, Minoli, coglie la tua sicilitudine. Ragazzi, qua ci amano, eh. C'è un messaggino che dice: Minoli, ti voglio come zio. Roba dai, seria. Come zio. Come zio, non qualcuno, è possibile. Qualcuno intanto sta indovinando il nostro canzoniere? No, è troppo difficile. No, è facilissimo. È allora, posso non dare gli Google, elementi d'aiuto? Dai qualche allora, elemento. Ho detto, è un grande poeta dell'anno 1000. È un poeta di lingua araba della letteratura italiana. Ecco, guarda. È così. È stato recitato da Franco Battiato, Etta Scollo, Andrea Camilleri. Che volete di più? Non lo potete googolare, peggio per voi. Però è un grande poeta, se non lo conoscete è da disperarsi. È arrivato. Gli altri diventarono li capiti e non mi basta l'arba di rire e cantare che quando te lasciavo sono gli anni. Vabbè, questo l'abbiamo risentito aiutarvi. Vediamo se Daniele Doglio, il professore di economia dei media, che è sempre in giro per il mondo ed è coltissimo, ne sa qualcosa. Intanto è stato a Oxford, dove si è riunito il gota dei media britannici. Ci racconta. Buongiorno. Dove si fanno i selfie. Lo sappiamo, si fanno i selfie lì, sì. Lei mi mette in imbarazzo, però prima o poi dovrò decidermi ad ascoltare con attenzione la prima parte. Sarebbe meglio, professore. Intanto ci dice che cosa è capitato a Oxford. Vabbè, intanto già il fatto di vedere una volta l'anno un consesso di quel tipo dove siedono insieme l'attuale ministro della cultura Maria Miller, la ministra ombra della cultura laburista Harriet Harman, la presidente di Ofcom, cioè dell'autorità delle comunicazioni, e mi fermo qua, ho detto tre signore, tre donne che sono a capo di diciamo i tre segmenti chiave della politica delle comunicazioni inglese, che è abbastanza atipico. Poi naturalmente Adam Crozier, il direttore di ITV, la televisione commerciale. Vabbè, e la sostanza, va bene, c'era un gota di persone, ma di che cosa si è parlato? Ma si è parlato, diciamo, di tante cose, una giornata molto piena, molto ricca. Sì. Certamente si è parlato di BBC. Ecco, su cosa si sta concentrando la BBC? La BBC ha cominciato la battaglia per il rinnovo del charter. No, io ripeto ai nostri ascoltatori che sembriamo maniaci, ma ne parliamo perché è un problema che sta arrivando e sarà molto importante in Italia, perché nel 2016 si deciderà se si pagherà ancora il canone e a chi si pagherà il canone. Questo per... Allora, la stessa cosa sta succedendo in Gran Bretagna, appunto, nel senso che quella che è normalmente ogni 10 anni una fase di discussione intorno, diciamo, al futuro del servizio pubblico, anche quest'anno comincia prima, giusto? Anche questa volta comincia con 2 anni di anticipo, perché ci vuole tempo per mettere a punto gli strumenti di analisi. E sono cominciati anche gli scherzi, nel senso che quella che sembrava un assetto tutto sommato stabile, il mercato inglese è diviso rigorosamente in 3 parti, ognuna delle quali è assegnata a operatori distinti, quindi non ci sono quei problemi di concentrazione verticale che ci sono spesso in Italia soprattutto. Sì. E quindi c'è un settore pubblico che prende il canone, la BBC, c'è un settore commerciale con 3 operatori, 4 operatori, che ha un peso più o meno uguale, intorno ai 6 miliardi di euro, diciamo, traduciamo velocemente, ecco, di valore di mercato. E sì, poi c'è la televisione a pagamento, che è quella che vale di più tra Sky e Virgin Media. Ecco, ma professore, no, volevo sapere, la BBC in Gran Bretagna è vista bene oppure deve temere qualcosa? La BBC è vista bene dal pubblico. E sul rinnovo del charter quindi non ha problemi? Non ha problemi. Il governo, in maniera surrettizia, sta cominciando a rimettere in circolazione l'idea che il canone, tutto sommato, potrebbe essere condiviso con altri operatori. Ecco, questo è interessante. Altri operatori, diciamo, di servizio pubblico, o altri operatori che si impegnano a fare programmi di servizio pubblico. Questa volta, però, invece che affidarsi a ministri, sottosegretari, capi dipartimento, le richieste vengono da personaggi non sospetti: l'ex presidente di BBC, Grade, due importanti conduttori giornalisti come David Dimbleby e Michael Mosley. Cioè gli uomini del settore vogliono accedere alla charter, cioè al canone, in qualche comunque modo. Soggetti anche che vengono dalla BBC. Che hanno competenze specifiche e professionali. Intanto, scusi professore, Maurizio da Cuneo dice: Sara ha vinto. Maurizio? Sì. Dica, provi a dire. Sì, ci provo anche. Allora, lo dico come si scrive, non so se è una pronuncia diversa. Ibn Amdis, con l'H iniziale. Bravo! Ha vinto. Bene, suo libro, un bel Feltrinelli. Ecco, professore. Sono contento. Preciso solo una cosa. Chiamo da tutto un nome impossibile da dire. Dobbiamo dirlo tutti quanti. Allora, no, dicevo, quindi in questo momento è partita questa campagna un po' sotto traccia e non è proprio esplosiva. Chi è invece esploso di fronte a queste ipotesi è il direttore generale di BBC, che ha risposto in maniera molto dura. Lord Hall ha preso in mano le redini da un anno, ha ristrutturato in qualche modo l'immagine della BBC, che era stata colpita da quello scandalo Jimmy Savile, esatto, un paio d'anni fa. Ed è partito alla carica subito dicendo sostanzialmente questa storia del top slicing, lo chiamano così, cioè della condivisione della torta, è una cosa che gli dà fastidio naturalmente, il problema non esiste, vabbè. E addirittura professore, ha proposto, e questo è interessante, siamo di in finale. Aumentare il canone. Benissimo. Bene, parleremo la prossima volta. Abbiamo detto che il professor Doglio va in giro per il mondo, Sara Tardelli ha intervistato una che fa programmi che vanno in giro per il mondo, cioè Benedetta Rinaldi, la conduttrice di Community, un programma prodotto da Rai World, cioè Rai International sostanzialmente, per i nostri connazionali che vivono all'estero. Benedetta Rinaldi, tu conduci Community, un programma che va in onda tutti i giorni su Rai Italia, ma ci racconti che programma è? Guarda, è un'ora intensissima in cui parliamo degli italiani all'estero, cioè non parliamo dell'Italia, parliamo proprio di loro, delle loro storie, quindi storie da tutto il mondo. I nostri inviati ci mandano storie di successi o insuccessi, quindi anche di dolore o di difficoltà di lontananza. E poi abbiamo i rappresentanti degli italiani nel mondo, che ne so, i lucchesi nel mondo hanno le loro associazioni, i trentini nel mondo aspettando, insomma, queste cose qui. Poi abbiamo l'ospite centrale, che in genere è un personaggio famoso sia in Italia che all'estero, ma che comunque ha delle esperienze all'estero. E poi abbiamo una rubrica carinissima sulla lingua italiana. E poi infine abbiamo la rubrica di servizio, che è utilissima per gli italiani all'estero, quindi pensioni, materia legale, notai. Ma dagli anni scorsi, tu oramai sei una veterana, no, di Rai Italia, ma che cosa è cambiato nel tuo programma? Sono cambiate tante cose. Innanzitutto che è arrivato un nuovo direttore, il canale era Rai International, adesso si chiama Rai Italia. Il programma ha cambiato anche scenografia, per cui è una sorta di loft americano molto carino, molto accogliente. E poi è cambiata la durata, perché dura un'ora al giorno. E poi è cambiato, secondo me, il tipo di pubblico, perché 3-4 anni fa non c'erano tutti gli italiani all'estero che stanno partendo oggi, anche mentre parliamo per l'estero. Certo, c'è una nuova ondata di spettatori. Cambia il pubblico, devi andare loro incontro, e effettivamente nell'era di internet è molto difficile riacchiapparli. Ma in Italia, però, dall'Italia, voglio dire, il tuo programma Community è impossibile da vedere. No, si vede, perché altra novità, abbiamo un nuovo sito www.raiitalia.it, vuole, è curioso, si va a vedere Community perché ci sono tutte le puntate, per cui non scappate. Ma in TV? In TV si vede, e questa è una cosa bellissima, cioè la RAI per la prima volta si è aperta all'idea di far vedere al pubblico italiano le vite degli italiani all'estero, che non è una cosa, prima era quasi un tabù, cioè, devo dirti che i tempi di RAI Internet erano sconosciuti. Ma no, più che altro è una specie di recinto magico in cui, va bene, gli italiani all'estero hanno il loro canale, punto. Invece no, RAI Scuola sabato e domenica, ogni sabato e ogni domenica ci trasmette praticamente a ripetizione, noi scegliamo le puntate migliori e quindi si può vedere dalle 8:30 di mattina fino alle 22:30 la sera. Ecco, oggi Marina Milone, nell'anniversario della morte, ci ricorda l'agente segreto Nicola Calipari.